Conti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole. L'elezione di Donald Trump a presidente degli Stati Uniti potrebbe preludere, se il presidente eletto manterrà quanto promesso in campagna elettorale, a un drastico cambio di rotta sia nella politica estera americana che nella politica economica. In attesa che il presidente eletto si insedi e forte della maggioranza ottenuta cominci a realizzare in tutto o in parte il programma esposto agli elettori, sui principali media nazionali e internazionali si moltiplicano commenti e analisi sui rischi di un ritorno a una politica economica di stampo protezionista. È in arrivo una sorta di tsunami in grado di sconvolgere gli attuali equilibri geopolitici mondiali? Ne parliamo questa sera con il professor Sergio Fabbrini, direttore della Lewis School of Government e docente di scienza politica e relazioni internazionali alla Lewis. Buonasera professore, benvenuto. Buonasera, grazie. Partiamo da un passaggio del suo editoriale di domenica scorsa sul Sole 24 Ore. Con l'elezione di Donald Trump è come se fosse giunto a conclusione un lungo ciclo politico avviato dagli eredi di Franklin Delano Roosevelt dopo la Seconda Guerra Mondiale, basato sulla visione di un mondo aperto, oltre che governato da un complesso sistema di istituzioni multilaterali. La vittoria militare degli Stati Uniti in quel conflitto mondiale consentì alla sua leadership di promuovere un disegno di organizzazione internazionale che, una volta realizzato, introdusse una discontinuità profonda con il passato. Mai era stata elaborata una strategia così sofisticata. La realizzazione di quel disegno, attraverso la nascita delle Nazioni Unite e delle organizzazioni ad esse collegate, come la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, posero le basi per un nuovo ordine mondiale. Un ordine mondiale così legittimato che dopo la fine della Guerra Fredda, perfino le nuove potenze in ascesa finirono per farlo proprio. L'ascesa della Cina, ad esempio, non è avvenuta contro quell'ordine, ma all'interno di esso. In sostanza, professor Fabbrini, ora è proprio l'assetto mondiale che ha retto per oltre 60 anni ad essere posto in seria discussione. Il rischio è reale? Sì, io penso che Donald Trump cercherà di lasciare il proprio segno molto di più sulla politica estera che sulla politica interna. Sulla politica interna ci sono certamente delle divergenze tra lui e la maggioranza repubblicana del Congresso, ma esiste un sistema di controlli e bilanciamenti che si farà facilmente sentire. Anche congressmen, senatori e rappresentanti repubblicani non andranno troppo avanti su politiche che potrebbero mettere in discussione la loro rielezione. E nella politica estera invece, che avverto e siamo in tanti ad avvertirlo, un cambiamento di rotta già durante la campagna elettorale, ma anche dalle dichiarazioni che sono state fatte subito dopo le elezioni. Donald Trump ha intenzione di bloccare le negoziazioni per i due trattati, uno transatlantico e l'altro transpacifico, che erano finalizzati a creare un'area di mercato molto grande, che avrebbe sicuramente aiutato e favorito nel nostro caso l'Europa. Donald Trump è intenzionato a rivedere l'assetto complessivo dell'Alleanza Atlantica Militare, che in qualche modo ha garantito, che in qualche modo in modo significativo, sostanziale, ha garantito la pace nel nostro continente, la NATO. Donald Trump ha modificato in modo radicale la posizione americana nei confronti della Russia, passando dall'atteggiamento molto più avversariale e diffidente che ha avuto l'America di Obama verso Putin, a un atteggiamento che è quasi amichevole, di compagno di affari. Insomma, quindi siamo di fronte a un cambiamento che io credo si possa definire di tipo storico. E allora torniamo indietro nel tempo, professor Fabbrini, al 1932, quando il governatore dello stato di New York, Franklin Delano Roosevelt, si candida alle elezioni presidenziali per il Partito Democratico contro il presidente uscente Herbert Hoover. In novembre viene eletto 32esimo presidente degli Stati Uniti. Resterà in carica per 12 anni, 4 rielezioni, un record, interrotto solo dalla morte il 12 aprile del 1945. Il paese è alle prese con la più grave recessione economica della sua storia. La crisi innescata dal crollo di Wall Street del 1929 ha causato più di 13 milioni di disoccupati. 5.000 banche sono state chiuse. Il sistema industriale e finanziario è ai limiti del collasso. Il 6 marzo del 1933 Roosevelt convoca il Congresso in sessione straordinaria, decreta la chiusura di tutte le banche per 4 giorni, impone l'embargo sull'oro e sospende la convertibilità del dollaro. Ma il New Deal, il nuovo corso cui Roosevelt affida il compito di portare il paese fuori dalle secche della recessione, non è solo un programma economico e sociale, è la speranza che il presidente offre al suo paese, una scommessa e al tempo stesso un nuovo progetto in cui riconoscersi. By a vote of 945 out of a total of 1135 and one half vote of the I successori di Roosevelt, professor Fabbrini, da Truman, che era democratico, a Eisenhower, repubblicano, e poi ancora Kennedy, democratico, fino ad Obama, ne hanno raccolto l'eredità. L'assetto geopolitico e economico mondiale che si realizza nel secondo dopoguerra, anche grazie alla lunga presidenza di Roosevelt, non è mai stato posto in discussione. Ora invece potrebbero essere nettamente sconvolto. E come, in che modo la presidenza Trump potrà cambiare la rotta del commercio mondiale, ma anche quello delle relazioni economiche tra le due sponde dell'oceano? Ma intanto quel disegno che Roosevelt e soprattutto i New Dealers portarono avanti già durante la guerra, c'era stata una significativa riflessione all'interno dell'elite intellettuale e politica americana, ma poi soprattutto dopo la guerra è stato un progetto che non aveva precedenti storici. Pensate che la potenza che vince la guerra, invece di umiliare gli sconfitti, invece di fargli pagare i costi che aveva dovuto sostenere, in realtà li aiuta a ricostruirsi con il piano Marshall, reinserisce questi paesi, Italia, Germania, Giappone, dentro un sistema multilaterale, dà loro una piena legittimazione politica internazionale. Quindi è veramente un cambiamento di paradigma. Non sempre, in particolare in Europa, ci si rende conto di questo e non sempre ci si rende conto che quel cambiamento di paradigma ha reso possibile l'Europa integrata, la pacificazione, ma anche il nostro benessere. Ora Trump oggi è l'espressione di una coalizione, come si dice, elettorale, di gruppi sociali, di un blocco di elettori che sono collocati principalmente negli stati intermedi, delle pianure americane, e sono elettori che hanno, come dire, sono stati colpiti da questa apertura dei mercati, sono stati colpiti dallo sviluppo di questa apertura in direzione di una globalizzazione. E chiedono oggi di essere protetti, chiedono cioè che ci siano delle dogane più alte, delle tariffe più alte per impedire la competizione che viene dall'estero nei loro stati. E quindi Trump è l'espressione di un nazionalismo economico che l'America aveva sempre tenuto sotto controllo perché i vantaggi erano evidenti per tutti. Invece abbiamo un nazionalismo economico che si giustifica perché alla fine i vantaggi sono dati a favore di alcuni, principalmente i ceti che erano in grado di avvantaggiarsi, che erano istruiti, urbani, professionalmente avanzati, e sono andati invece quel processo di globalizzazione a svantaggio di questo elettorato. E mi sembra difficile che Trump non cerchi di fare i loro interessi, quindi cercherà di richiamare le imprese americane dall'estero in America, proteggerà le industrie del lavoro americano, creerà un mercato interno protetto dalla competizione. È un disastro, sarà un disastro, perché questo, noi possiamo alzare i muri ma l'acqua passa ugualmente. Tuttavia potrebbe essere una politica che creerà dei grandi problemi. La mia domanda è: cosa fa l'Europa? Infatti era l'ultima domanda che volevo farle, professor Fabbrini. Cosa fa l'Europa? Non potrebbe essere questa la volta per cui l'Europa si dia una scossa, che ci sia una spinta verso una maggiore integrazione economica e politica? Ma è auspicabile, però evidentemente anche noi dobbiamo cambiare il paradigma. Se un accordo commerciale che ha molto equilibrato, che è stato negoziato per moltissimo tempo, è stato considerato in tutti i dettagli, come quello tra l'Europa e il Canada, sì, è rimasto prigioniero delle volontà di un legislativo, di un paese, di una comunità dentro un paese. La Vallonia. La Vallonia di 3 milioni di abitanti, e quell'accordo riguardava gli interessi di più di 500 milioni di abitanti. Ora è chiaro che se l'Europa si chiude nel suo nazionalismo interno, noi moltiplichiamo i problemi, perché se gli americani diventano nazionalisti sul piano economico, tuttavia rappresentano un paese di 320 milioni di abitanti, grande, con tante risorse, quindi in qualche modo l'isolazionismo per loro ha una qualche giustificazione è comprensibile, ma il nazionalismo della Vallonia, il nazionalismo della Boemia, il nazionalismo dell'Ungheria, sono dei nazionalismi senza alcuna giustificazione materiale, hanno solamente una giustificazione ovviamente di tipo ideologico, e questi piccoli nazionalismi possono produrre conseguenze negative in tutta l'Europa. Ora, già cambiare paradigma, bisogna pensare che non possiamo andare avanti con le soluzioni giorno per giorno. Bisogna alzare lo sguardo e pensare che l'Europa deve fare un salto, ora che si sente più sola e per molti aspetti abbandonata dagli Stati Uniti, deve fare un salto in avanti e darsi un'identità politica molto più forte di quella che ha avuto finora. E soprattutto, professor Fabbrini, non pensare che appunto le strategie di politica economica si debbano mettere in campo soltanto con lo sguardo rivolto al giorno dopo, ma pensare un po' più in grande. Allora, tante grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Un ringraziamento a Luca Cremonese in redazione, Alessandro Chiappini in regia. Buona serata a tutti.